perfetto giorno di Simone Spezia. Bene la produzione industriale ad agosto, più 4,1%, Renzi sul credito alle imprese, anticiperemo parte del fondo di garanzia al 2016. Duello televisivo tra Trump e Clinton, volano gli insulti, Hillary non sfonda e Donald sotto pressione, non cede. Il Nobel dell'economia al britannico Arte e al finlandese Holmström per il loro lavoro sulla teoria dei contratti. Scontro sul referendum ancora aperto nel Partito Democratico, questo pomeriggio la direzione del PD. Arrestato in Germania un siriano che progettava attentati, un suo connazionale lo ha allegato e poi lo ha denunciato alla polizia. Dopo il nuovo caso di combustione, sospesa la produzione del Samsung Galaxy Note 7, l'azienda, stiamo lavorando. Calcio per la nazionale, è già processo dopo lo stentato 3-2 contro la Macedonia, Italia salvata dalla doppietta di Immobile. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno. Buon lunedì a tutti. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque i dati economici di oggi. Rimbalza sorprese la produzione industriale, cresciuta in agosto dell'1,7% rispetto a luglio del 4,1% su agosto 2015. Il risultato migliore da 5 anni, certifica l'Istat. Continua inoltre ad aumentare la produzione di auto, che sfiora un incremento del 42% su base annua e registra una crescita del 9,5% nei primi 8 mesi dell'anno. Dati buoni e superiori alle attese, anche se, spiega Roberto Monducci, direttore del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istituto, agosto è un mese anomalo. Un mese tipicamente caratterizzato da bassissimi livelli di produzione, vanno interpretati con cautela. Quindi agosto è un mese molto difficile da un punto di vista delle misurazioni statistiche e quindi queste variazioni, seppur intense, seppur ampie, vengono sempre commisurate a volumi di produzione abbastanza ridotti. Quindi è un dato, diciamo, da tenere sotto osservazione nei prossimi mesi. Fatto sta che effettivamente le imprese hanno scelto di produrre e di tenere aperti gli stabilimenti anche ad agosto. Quindi, almeno sotto il profilo qualitativo delle intenzioni, questo è un elemento sicuramente interessante e importante. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo è il quadro della produzione industriale, oggi molto di economia e della prossima manovra. Si è parlato ad Asso Lombarda, presente anche il Presidente del Consiglio Renzi, ha seguito la mattinata Anna Marino. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Certo, provvedimenti economici e cifra alla mano anche all'Assemblea Generale di Asso Lombarda e Confindustria Milano Monza-Brianza si è parlato soprattutto di misure, finanziamenti e conti dello Stato. Nella settimana di composizione della manovra il Premier Matteo Renzi infatti ha anticipato l'operatività del Fondo di Garanzia per le Imprese previsto appunto dalla manovra al 2016. Sentiamo. Mettiamo 900 milioni secchi subito, tra l'altro una parte li metteremo già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza, quindi non soltanto metteremo i 900 milioni sul fondo di garanzia, ma li anticiperemo una parte al 2016 come deciso con il ministro Calenda e il ministro Padoan per dare un segnale immediato, perché bisogna pompare, soprattutto per chi non ha i requisiti previsti dalle grandi regole europee, la possibilità di dare denaro e far ripartire finalmente il credito e quindi la fiducia. Renzi quindi ammette difficoltà nel credito rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che prima aveva elencato, visto le risorse ristrette, i pilastri su cui appunto i punti selettivi su cui intervenire e concentrarsi a sostegno della crescita reale dell'economia. Sentiamo. Dobbiamo individuare strumenti selettivi, perché le risorse non sono tante, per costruire e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Il primo asso è la produttività. Abbiamo chiesto al governo di intervenire sulla politica fiscale legata alla produttività, detassando maggiormente i premi di produzione nei contratti di secondo livello aziendale. Secondo asse, riattivazione di investimenti privati. Sulla questione finanza abbiamo proposto al governo di prevedere benefici fiscali per aumenti di capitali, perché si può e si deve crescere senza debito. Quindi al punto 4 anche sull'accesso al credito, un tavolo con le banche per valutare parametri qualitativi delle imprese. Non sono mancati riferimenti alla politica economica europea, sia Renzi che Boccia hanno indicato gli Stati Uniti come esempio, e da Renzi una stoccata all'Europa in questi anni in cui l'Italia è stata silente sono state fatte regole finanziarie a favore di alcuni paesi europei che ora stanno dominando appunto l'Europa. E per ora è tutto. Grazie dunque Anna Marino. Restiamo sui temi economici ma per parlare dell'assegnazione del Nobel per l'economia. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2016 to Oliver Hart and Bengt Holmström. E questi sono i due premiati di oggi, ci racconta tutto Livia Zancaner. Livia, ciao. Buongiorno Simone. Allora, Oliver Hart, britannico, insegna all'Università di Harvard, 68 anni. L'altro, Bent Holmstrom, finlandese, 67 anni, insegna al MIT di Boston, Massachusetts Institute of Technology. Il Nobel è arrivato per gli studi sui contratti, ovvero come costruire contratti ottimali tra un principale, ad esempio l'azionista di una società, e l'agente, ovvero i top manager, legando ad esempio la retribuzione alle prestazioni. Ma raccontarci il contributo dei due economisti è Fausto Panunzi, professore di economia alla Bocconi ed ex studente proprio di Hart. Quello che hanno mostrato Hart e Holmstrom è che ci sono varie considerazioni da tenere presente. Ad esempio, che cosa accade quando la gente è avverso al rischio? In questi casi il principale deve da una parte dare gli incentivi a lavorare, ma dall'altra parte deve tener conto che la gente può subire le conseguenze di eventi che sono al di fuori del proprio controllo. Oppure l'altro problema è capire quando vogliamo incentivare un agente a fare cose diverse. Ad esempio, vorremmo che un manager lavori per aumentare i profitti di breve periodo, ma non a scapito di quelli di lungo periodo. E infine, l'ultimo argomento importante è quello che riguarda l'attività dell'impresa. I contratti molto spesso sono incompleti, non riescono a prevedere tutte quante le possibili circostanze. E questo è stato usato per capire come le imprese possono essere per colmare questo gap della teoria dei contratti. I loro studi sono stati applicati a vari settori, quindi non solo alle imprese, ma anche alle assicurazioni, al settore pubblico, ad esempio con un focus particolare sulle privatizzazioni. Ed è tutto a te, Simone. E grazie dunque a Livia Zancaner per questo aggiornamento e per questo racconto dei Nobel. Veniamo al dibattito Clinton-Trump. Si è concluso con una stretta di mano tra Donald Trump e Hillary Clinton. Il secondo dibattito presidenziale è iniziato in un clima molto pesante. Un duello sporco per la stampa americana, in cui, secondo i sondaggi, la Clinton ha vinto, ma Trump non è finito KO. Per gran parte dei 90 minuti di confronto, la democratica e repubblicano si sono scontrati a colpi di insulti e persino di minacce, come quella di Trump di mettere Hillary sotto inchiesta o addirittura in galera per le email private se mai diventerà presidente. Ma l'avvio del duello era stato dedicato alla questione più scottante, il video del 2005 in cui un Trump sessista si vantava di poter fare di tutto alle donne essendo una star. Su questo tema il tycoon non si è difeso bene, è apparso confuso e nervoso. Non ne sono orgoglioso, ha detto Trump, che si è scusato, ma ha parlato di chiacchiere da spogliatoio maschile. Poi ha rilanciato con le accuse su Bill Clinton, che a suo giudizio fece di peggio, e ha invitato sul palco le sue accusatrici. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women. Quello che abbiamo visto e sentito venerdì era Donald che parlava delle donne, cosa pensa di loro e cosa fa a loro, e quel video rappresenta chi è veramente, ha ribadito la Clinton, e lo ha accusato di non pagare le tasse federali. Ora il terzo ed ultimo round fra i due contendenti, atteso per il prossimo 19 ottobre. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero e ci spostiamo in Germania, ricordandomi naturalmente che poi ci sarà America 24, anche che parlerà di questo dibattito con il nostro Mario Platero. Spostiamoci in Germania, si diceva, per parlare dell'arresto di un siriano che preparava un attentato. Sono entrambi profughi siriani, sia colui che è sospettato di voler organizzare un attentato terroristico in Germania, che è stato arrestato nella notte, che la persona che ha aiutato la polizia ad arrestarlo. Dopo due giorni di ricerca, infatti, il giovane Jaber al-Bakr, cittadino siriano 22enne sospettato dell'organizzazione di un attentato, è stato arrestato nell'appartamento di un suo connazionale nel quartiere Pausdorf di Lipsia. Nella sua fuga attraverso il paese aveva raggiunto la stazione centrale della città, dove aveva chiesto ospitalità a un connazionale. Quest'ultimo lo avrebbe accompagnato a casa, lo avrebbe riconosciuto, avrebbe avvertito la polizia, che ha trovato al-Bakr già legato quando ha fatto irruzione nell'appartamento. Ora al-Bakr sarà trasferito nel corso della giornata a Karlsruhe, sede della Procura federale tedesca competente per le questioni di terrorismo. Confermata la custodia cautelare anche per il suo complice arrestato sabato. Al-Bakr era profugo in Germania dal febbraio 2015. Dopo l'ingresso era stato registrato a Rosenheim. Per fabbricare l'ordigno avrebbe reperito su internet tutte le informazioni e anche il materiale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi torniamo all'Italia. Adesso è ancora aperto lo scontro sul referendum, soprattutto all'interno del PD, è attesa la direzione per oggi. Ancora una volta, in un clima da resa dei conti, nel pomeriggio torna a riunirsi la direzione del Partito Democratico, un appuntamento preceduto da un weekend di polemiche fra Renzi e l'opposizione interna. Le aperture sulle modifiche alla legge elettorale, attese dal segretario democratico, non sembrano aver convinto diversi esponenti della minoranza, a partire da Bersani, che oggi potrebbe ufficializzare il suo voto contrario al referendum costituzionale del 4 dicembre. È quasi scissione, sta a Renzi scongiurarla, mette in guardia in un'intervista Cooperlo. La minoranza ci ripensi è invece l'appello che arriva dal ministro Franceschini. L'Italicum si può cambiare, gli fa eco il capogruppo Dem alla Camera, Rosato, che invita Bersani e D'Alema a non buttare via una riforma discussa da 30 anni perché, avverte, sarebbe una cicatrice insanabile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci in Vaticano. 17 nuovi cardinali, 13 con meno di 80 anni e quindi con il diritto di voto in un prossimo conclave. Ad annunciare le nuove nomine è stato il Papa. Il Concistoro ci sarà il 19 novembre. A ricevere la berretta rossa il nunzio in Siria, Zenari, il leone di Abngui, il coraggioso arcivescovo della capitale centrafricana, un prete quasi novantenne, vittima di torture in Albania. L'analisi è di Katia Caramelli. Il nunzio apostolico in Siria, Monsignor Zenari, ha già spiegato che dopo aver ricevuto la berretta rossa farà subito ritorno a Damasco. L'88enne Don Simoni, 28 anni tra carcere, tortura e lavori forzati, in Albania pensava ad uno scherzo. Sorprendono i nomi, certo, dei 17 cardinali che Francesco creerà nel prossimo concistoro, 13 con diritto di voto, ma soprattutto confermano la Chiesa secondo Francesco. Universale, non eurocentrica, 7 le nazioni coinvolte che non avevano cardinali, di queste 4 avranno porporati elettori. Tesa verso le periferie del mondo, come la Repubblica Centrafricana, il Bangladesh e la Nuova Guinea, attenta allo stile. Il Papa promuove i pastori che hanno addosso l'odore delle pecore, capaci di dialogo e di abbassare i toni bellicosi. In questo senso vanno anche le scelte dei porporati americani. Solo un curiale tra i nuovi principi della Chiesa, trascurate le tradizionali sedi cardinalizie come Venezia e Torino. Se domani ci fosse un conclave, certo, la maggioranza degli elettori, 54, sarebbe ancora europea e 25 sarebbero gli italiani, ma il nuovo corso è ormai tracciato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, vince il premio per il titolo di giornata il Secolo XIX che titola Accendiamo un Ciro, parliamo naturalmente della nazionale, della prestazione di Immobile, ma soprattutto della prestazione Dario Ricci non proprio esaltante degli azzurri. Sì, sicuramente è un'Italia che vince ma non convince, andando invece su un titolo più banale. Torniamo dalla Macedonia con i 3 punti che volevamo, ma dopo parecchia fatica e dopo... E portandoci in valigia anche parecchi dubbi sul CT Ventura, perché è inevitabile che l'attenzione si concentri su di lui, vista la prima ora con la Spagna, vista questa sfida con la Macedonia. In entrambe le occasioni abbiamo sbagliato la formazione iniziale e quindi sembra un Ventura che, malgrado la grande esperienza, malgrado l'età, malgrado sia considerato uno dei padri nobili del nostro calcio, stia facendo un po' fatica a entrare in quella tuta, in quella giacchetta da CT della nazionale. Il prossimo appuntamento, il 12 di novembre, in trasferta in Liechtenstein, non è certo improbo e potrebbe allora essere l'occasione buona per trovare qualche convinzione in più, qualche certezza in più e soprattutto per il CT per entrare di più in questo ruolo. È quello forse che manca. Gli uomini ci sono, perché Immobile, Belotti, lo stesso Bernardeschi, chiaramente stiamo varando una nuova nazionale, il tempo va dato sia a questi ragazzi sia soprattutto a questo CT. Vedremo cosa succederà dunque con le prossime partite. Intanto grazie al nostro Dario Ricci, rimaniamo sullo sport perché si aprono oggi dei mondiali di ciclismo, per così dire, bollenti. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare, sì. Che sia bello pedalare a 40 gradi circondati dai cactus è tutto da vedere. Se poi tira anche vento con la sabbia che brucia gli occhi, meglio mollare le biciclette e salire su un bel cammello. Almeno lui c'è abituato. Incredibile ma vero, è partito nel Qatar il campionato del mondo di ciclismo, il primo dopo 95 anni di storia nel Medio Oriente. Un contesto spaesante con pochissimo pubblico e che apre un caldissimo dibattito sull'opportunità di trasferire eventi così popolari nel deserto. È la nuova frontiera dello sport, dicono gli organizzatori, tra i quali c'è anche il leggendario Eddie Merckx. Una sfida che, in nome dei petrodollari di sceicchi e sponsor, porta le discipline più popolari, i mondiali di calcio saranno nel 2022, in contesti estremi, lontano dai tifosi e dai circuiti tradizionali. Ma non tutti si lamentano, l'azzurro Viviani è contento. Per noi velocisti, dice, Qatar, Abu Dhabi e Dubai sono piccoli paradisi, niente salite, alberghi da favola. Ogni tanto un mondiale così ce lo meritiamo. Insomma, anche nel ciclismo a qualcuno piace caldo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Samsung adesso, che ha deciso di sospendere la produzione del Galaxy 7 Note. Samsung si è limitata questa mattina a parlare di un adeguamento dei volumi produttivi per migliorare il controllo della qualità, ma secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, che cita in forma anonima uno dei fornitori di Samsung, l'azienda avrebbe sospeso la produzione del Galaxy Note 7 dopo gli ennesimi episodi di batterie che prendono fuoco. Negli ultimi due mesi Samsung ha richiamato 2,5 milioni di smartphone in tutto il mondo, ma evidentemente il problema è più grave del previsto, poiché sarebbero fallati anche i nuovi prodotti che erano stati spediti per sostituire quelli difettosi arrivati sul mercato in agosto. L'ultimo caso riguarda un episodio avvenuto la settimana scorsa su un aereo della Southwest Airlines in America, evacuato dopo che del fumo è uscito da un Galaxy Note 7. Altri 5 casi sospetti hanno portato nel fine settimana alcuni operatori di telefonia mobile a sospendere le vendite del Note 7. La sospensione della produzione sarebbe stata presa in accordo con le autorità sudcoreana, americana e cinese. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato presentato oggi The Young Pope, la serie di Sorrentino, firmata da Sorrentino. Alessandra Schepisi ha seguito la proiezione della conferenza stampa. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, una serie TV, 10 episodi girati in inglese per raccontare la storia di Renny Belardo alias Pio XIII, primo papa americano della storia, fuma, beve coca zero alla ciliegia, porta l'infradito, è giovane, una figura molto controversa, misteriosa, ancorata alla tradizione ma nello stesso tempo innovatore, tutto ruota di fatto intorno al ritratto psicologico di questo complesso personaggio. I primi due episodi della serie, che approda il 21 ottobre su Sky Atlantic, sono stati dunque presentati questa mattina qui al Cinema Space a Roma. Si tratta di una coproduzione Sky, Canal Plus, HBO, emittente televisiva statunitense, che per la prima volta ha deciso di partecipare alla produzione di una serie TV europea. Il cast è un cast molto importante: Jude Law veste appunto i panni del Papa, Diane Keaton quelli di Stormeri, Silvio Orlando quelli del Cardinale Boiello. In questa serie, ha spiegato il regista Paolo Sorrentino poco fa in conferenza stampa, volevo raccontare il clero nella sua umanità, con i pregi, i vizi, i difetti, ma anche la solitudine, come quella che a suo dire abita dentro lo Stato Vaticano, che di per sé ha detto un emblema dell'isolamento, un luogo dove il tempo si è fermato. Ultima nota, il costo di questa produzione è 40 milioni di euro, la più costosa tra le serie TV girate in Italia. A te Simone. E grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, che oggi in realtà si ferma in Calabria. Due storie della Calabria, una ci parla di immigrazione, una ci parla di un'incredibile vicenda giudiziaria per farsi pagare da un ASL, raccontata oggi dal Corriere della Sera. Ne abbiamo riprese le fila. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di produzione industriale, delle novità in arrivo per la manovra, del duello televisivo tra Trump e Clinton, del referendum, del Nobel dell'economia assegnati al britannico Arte e al finlandese Holmström. Abbiamo parlato dell'arresto in Germania di un siriano che progettava un attentato. Abbiamo parlato anche di calcio con la nazionale, che ha tutt'altro che convinto. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Reggio Calabria, dove, che è uno di quei tanti comuni che stiamo raccontando più o meno quotidianamente o quantomeno settimanalmente, che hanno un problema serio derivante dagli sbarchi. Cosa succede? Che sbarcano gli immigrati che vengono salvati in mare, gli adulti vengono ridistribuiti sul territorio e nel resto d'Italia, i minori restano in carico al comune. Ve lo raccontiamo quasi quotidianamente. La situazione sta arrivando ad un livello di tensione forse anche pericoloso proprio in Reggio Calabria, dove in un centro per minori ce ne sono 300 e i residenti protestano. Antonino Castorina è capogruppo del PD nel comune di Reggio Calabria, consigliere metropolitano responsabile ANCI Giovani per le politiche dell'immigrazione in Calabria, e sta seguendo esattamente queste vicende, più o meno, non dico su delega del sindaco, perché il sindaco delega gli assessori di solito a queste cose, però siamo là. Castorina, benvenuto e buongiorno. Buongiorno e grazie a voi per interessarvi insomma, delle nostre vicende. Allora, sono poi delle vicende che riguardano tutti. Tutti quanti. Come vanno le cose? Le cose insomma vanno bene nella città, ma chiaramente serve sempre una maggiore attenzione e maggiori interventi per risolvere un problema che chiaramente riguarda Reggio, ma che nei fatti riguarda tutta l'area del Mediterraneo. Da un lato, insomma, per evitare che il Mar Mediterraneo diventa un cimitero a cielo aperto, dall'altro lato per consentire a questi migranti di poter essere accolti da tutta l'Unione Europea e soprattutto per poter consentire, sì, a loro chiaramente di vivere compatibilmente anche con le esigenze abitative dei cittadini. Sì, mi scusi Castorina, mi perdoni, questo è il punto generale. Io vorrei un punto sulla situazione specifica, perché ho capito, da quel che ho capito, cioè questo centro minori che ne accoglie 300. Innanzitutto sarebbe interessante anche sapere quante persone potrebbe contenere la struttura nella quale sono ospitati costoro, e poi c'è questo problema con i vostri concittadini, no? Sì, esattamente. Nel caso specifico, il centro di accoglienza d'Archi, che era la sede dell'ex facoltà di giurisprudenza, è un centro che contiene circa 250 persone, tre quarti dei quali minori. L'utenza è leggermente superiore a quella prevista insomma per il centro stesso. Questa situazione ha creato un po' di disagio da parte che poi prevista, Castorina, mi scusi, che poi prevista non vuol dire necessariamente che sia una condizione umana, cioè questo chiariamolo, perché poi no? La condizione dei migranti all'interno della struttura è ottimale. Il problema che si è creato deriva dal fatto che alcuni di loro, per fortuna pochi, non si stanno comportando in maniera corretta con gli abitanti del quartiere. Il che ha creato chiaramente un po' di disagio. C'è da dire però che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Non è un caso che nei mesi precedenti alcuni migranti in maniera spontanea addirittura hanno pulito piazza Santo Stefano di Nicea, che è la piazza antistante al centro. Ieri siamo stati con Sua Eccellenza il prefetto in loco per discutere con i cittadini che legittimamente in modo pacifico hanno manifestato il loro dissenso, ripeto, non per la presenza dei migranti, ma perché alcuni di essi hanno prodotto comportamenti sicuramente fuori regola e fuori norma. Ci siamo impegnati, parlando anche col sindaco, ad incentivare i controlli ed il monitoraggio sul territorio, anche se del caso facendo delle azioni, sì, di monitoraggio quotidiano, continuo, anche in orario notturno. Ecco, il rispetto delle regole vale per gli italiani, ma vale anche ovviamente per gli stranieri, ci mancherebbe altro. Allora io la ringrazio, grazie a Antonino Castorina per averci raccontato la situazione che si vive a Reggio Calabria, come quella che si vive in molti altri comuni. Se ne avete altre da segnalare, effetto giorno @radio24.it. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Restiamo in Calabria per una storia che in realtà si snoda tra la Calabria e Bologna, una vicenda raccontata oggi dal Corriere della Sera di un imprenditore che dal 1989 aspetta un pagamento dall'ASL, una roba da pazzi. A tra poco. Effetto giorno. Perfetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: produzione industriale bene ad agosto, più 4,1%. Renzi sul credito alle imprese, anticiperemo parte del fondo di garanzia al 2016. Il duello televisivo tra Trump e Clinton, volano gli insulti, Hillary non sfonda. Il Nobel dell'economia al britannico Hart e al finlandese Holmström per il loro lavoro sulla teoria dei contratti. Dopo il nuovo caso di combustione, sospesa la produzione del Samsung Galaxy Note 7, l'azienda stiamo lavorando la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, dunque, adesso parliamo di una storia lunga 27 anni e che inizia nel nostro Giro per l'Italia, ancora dalla Calabria, da Siderno, e finisce a Bologna. La storia di Giovanni Figliomeni viene raccontata oggi dal Corriere della Sera, una storia che comprende quattro processi, per farsi pagare dalla ASL un lavoro fatto nel 1989, un lavoro edilizio, un lavoro piuttosto semplice, un pagamento che non è ancora arrivato. Lo segue da allora l'avvocato Francesco Macri, che è in linea con noi. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Altri casi che siano durati 27 anni, lei? Ma 27 no, qualcun altro sì. Beh, lo immagino. Un po' di meno. Ma come mai ci sono voluti tutti questi, cioè, a 3 gradi di giudizio, un giudizio del TAR e ancora i soldi non sono arrivati? 22 milioni di lire, tra l'altro, nemmeno, come dire, questa cifra pazzesca. Che intanto è lievitata, mi pare, a 35-36 mila euro, ancora non abbiamo fatto gli ultimi calcoli. Certo, si è rivalutata, ovviamente è aumentata parecchio. Il termine, anche col contributo del calcolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese legali, eccetera. Certo, naturalmente. Ma come mai? Ma com'è possibile questa cosa qua? L'ASL non ha ritenuto di dover pagare, vi è stato un giudizio in primo grado che si è concluso non positivamente per noi, per il mio cliente, ma cioè in primo grado avete perso, la dico brutalmente, però abbiamo proposto subito appello, abbiamo vinto in appello, poi l'ASP intanto diventata ASP perché siamo partiti con la unità sanitaria locale di Siderno, poi siamo passati all'azienda sanitaria di Locri, oggi siamo di fronte all'ASPA, azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Abbiamo vinto un appello, l'ASP ritenne negli anni 2004-2005 di proporre ricorso per Cassazione, che perse nel 2009. Dal 2009 mille solleciti, istanze, richieste, incontri, ma non hanno sortito effetto, la sentenza era ormai da tempo esecutiva, non c'era nulla da fare. Non potevamo fare altro che aspettare perché purtroppo i fondi di pertinenza di questi enti sono super tutelati, ci scontriamo con il cosiddetto vincolo di impignorabilità. Non è che potete pignorare qualcosa all'ASL per rivalervi. Esatto, l'unica cosa è questo, quest'ultima coda è stata per la verità molto rapida. Il TAR di Reggio Calabria sul nostro ricorso, si chiama ricorso in ottemperanza, ha ordinato, dopo pochi mesi dalla introduzione del nostro appunto ricorso, ha ordinato alla ASP di Reggio Calabria di effettuare finalmente questo pagamento, concedendo ancora un termine di 90 giorni affinché lo facesse direttamente, potesse farlo direttamente l'ASP. Ma passato anche durante questo periodo l'ASP si è guardata bene dal pagare. Quindi i soldi non sono ancora arrivati. Avvocato, i soldi... Nella scorsa è stato anche mandato delle mail all'ASP parlando espressamente di vicenda Figliomeni, perché intuivo già quindi i soldi non sono ancora arrivati. Mi dice brevemente in 5 secondi quando spera di riceverli Figliomeni? Le ripeto, ripeto, l'ultima coda si sta svolgendo abbastanza rapidamente. I due soggetti pubblici che sì. se ne sono occupati, prima il TAR, ora la prefettura di Reggio Calabria, stanno procedendo molto velocemente. Allora, guardi, facciamo così, avvocato Macri, dato che dobbiamo chiudere, poi ci sentiamo e lei ci racconta il momento nel quale arriva questo benedetto pagamento, giusto per chiudere, è lunedì. Così vi dico che la vicenda poi si conclude bene e a lieto fine, perché il signore, che però purtroppo ha dovuto lasciare la sua città, vive a Bologna, ha aperto una gelateria che ha ricevuto anche un certificato di eccellenza di TripAdvisor, e quindi appunto vicenda si chiude a lieto fine, un buon modo per iniziare il lunedì nonostante la brutta storia giudiziaria. Platero.